Mi chiamo Cinzia, vivo a Trento, ho un negozio di sartoria qua a Trento, un sacco di clienti, una bella vita, tranquilla, e sono molto soddisfatta del mio lavoro, anche perché mi permette di essere a contatto con la gente e in più vedo che i miei clienti sono contenti di tutto quello che faccio.